11.06 sulle libere frequenze di Radio Blackout, prosegue la mattinata informativa e torna in onda l'appuntamento con Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo di Torino. E quest'oggi, dopo alcune settimane di vicissitudini e lontananze forzate, torniamo anche alla formazione abituale, quindi un buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto da Francesca. E un buongiorno a tutti e tutte anche da Eddie. Ricordiamo i contatti 011 24 95 669, per chiamarci il 346 6673 263 per scriverci. Adesso, come sempre, vi lasciamo ancora un pezzo musicale e poi andiamo a presentarvi la puntata di quest'oggi. Restate sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ho fatto la pelle dura tipo corazza frate, chiamami Godfather, mica patate, ci serve il karate mo. Scontro tra classi, quale figa e quale classifica, intralazzi la definizione che mi identifica. Qui nel parkour inarrivabile livello Mujahideen, saltano teste con il polonio, Vladimir Putin. Bada boom, bada bim, dalle mie parti c'è ancora Palpatine e per premio piovono proiettili tipo slot machine. Ci accontentiamo del piatto a tavola, ci hanno sequestrato il sogno di una vita da favola. Eppure l'ostentazione in Italia non passa mai di moda, e la giustizia latita nelle divise come nella toga. Su non c'è il Gota, c'è Gotham, giù paghiamo stipendi a Salvini, a Gota. A noi 30 denari come voi Giuda, Iscariota, un barista al banco sperciura e mischia c'è che coca. Benevolenza ce n'è ben poca, la vostra strapotenza oramai è da pelle d'oca. Abbassi la difesa e già ti arriva un gancio, polvere d'angelo, drago che sputa fiamme alla fine del dungeon. Mangio pane e rischio, sulle basi il basilisco, guardi giù, guardi noi, ricambiamo dall'abisso. Per questi soldier boy porto frassi nel crocifisso, i miei eroi stanno ad un crocevia di fisso. Sono De Niro che guida il tassì, a voi cade il mondo addosso se manca il 3G. Cerco la calma e movimento brother tipo il Tai Chi, ma questo mondo va scrostato come fosse un VG. Noi invincibili, per questo indietreggi, parte l'ultimo viaggio bro, molla gli ormeggi. Tutto uguale, tutto uguale, è tanto tutto uguale, tutto uguale, è tanto tutto uguale, è tutto uguale, in questa assurda corsa senza fine, dritti verso il gran finale, tanto tutto uguale. Ed è pesante. Oggi che il Papa pare così buono e piace a tutti quanti, la suora canta e hanno rimesso in promozione i santi. Sugli scaffali la redenzione in offerta, hanno cura a tutti i mali e la salvezza è certa. Come no, come non sferato, libera nostra malo con un morso avvelenato. È un popolo da greggio ammaestrato, mi giura che non è razzista ma solamente esasperato. E poi, poi fa le ronde con la motosega, a braccio teso canta me ne frego e se ne frega, e vota Lega, tanto un fascio vale l'altro, è uguale, basta che il bastone cali giù dall'alto. Sì, sempre sulla testa nostra, hanno la divisa, il manganello e la tenuta antisommossa. E qua lo stesso Stato sta a più di metà, che dovrebbe essere indagato per attentato all'umanità. Che parodia, Alibaba che fa da palo per la polizia, in più chili di ipocrisia. E poi mi dicono di credere nella speranza, che il male è non avere fede e mica l'ignoranza, che basta fare cassa e il resto non ha più importanza, che oggi la forma è l'unica sostanza. Per questi stronzi l'invito sopra il mix è sempre kill yourself, ma seriamente come Bill X. Vero. Allora, 11 e 11 di questo martedì 6 ottobre, andiamo a presentarvi la puntata di quest'oggi. Inizieremo continuando a dare alcuni aggiornamenti sulla questione dell'ISE, sugli effetti che sta avendo in maniera, diciamo, indiretta, però pesante su, sull'università, sulle borse di studio, ma soprattutto su le tasse che seguono appunto tariffe differenziate a seconda della fasciazione ISE. Parleremo appunto ancora di quello che sta succedendo, di quali sono questi effetti e soprattutto di che cosa si può fare per provare a contrastare questo ennesimo attacco all'università, facendolo ovviamente tutti assieme. E poi andremo a Roma, alla Sapienza, diciamo, tra i tanti modi per mettere a profitto, diciamo, lo studio, gli studenti, i percorsi formativi. La Sapienza si è inventata la Maker Faire, un evento che unisce scienza, fantascienza, tecnologia ed è divertimento e business e dà vita a qualcosa di completamente nuovo, cito da, diciamo, dalla brochure degli autori. Ma ci collegheremo poi con un compagno di Roma per andare a capire un po' meglio che evento, che tipo di evento l'università propone. Oltre a questo andremo a presentare, ricordare alcuni appuntamenti tra università e non solo, e riprenderemo poi anche in mano una rubrica che avevamo inaugurato sul finire dell'anno scorso, quella delle storie di Valderrama, che vi avevamo presentato questo progetto portato avanti da alcuni ragazzi di Bologna. Presto, insomma, hanno nuovi lavori in cantiere che vi faremo sentire. Per ora ci affideremo ancora a, insomma, quelli che non vi avevamo fatto ascoltare tra maggio e giugno, quindi, insomma, verso fine puntata torneremo anche a questo appuntamento qui. Questo è più o meno tutto, vi lasciamo un pezzo musicale, poi iniziamo subito con la puntata e con le prime dirette. Mr. Phil. Questo è il hip hop col cazzo, questa è guerra. Questo è il hip hop col cazzo, col cazzo. Questa è guerra. Questo è il hip hop. Questa è guerra. R.H.K. destinati a fallavori detestati per pagare la pensione a chi ci ha condannati. Programmati per commettere reati che in assenza di lavoro regolare sono aumentati. La gente sfrutta, ti toglie tutto quello che c'hai dentro, promettendo che un bel giorno poi andrà meglio. La storia è tutta da verificare, è brutta e siamo in alto mare. Un puttanaio essendo onesto, come cazzo devi fare? Parole come gocce sopra il vetro quando piove, come rocce che si infuocano al tatto con le stagnole. Brandelli di cristiani martoriati dalla polizia di Stato, siamo zaini calpestati. Li guardo in faccia perché filo attentamente, la vendetta qua è un istinto da gestire razionalmente. Scrivo sta traccia perché credo fortemente d'aver sempre rispettato tutti i king onestamente. La gente sfrutta, ti toglie tutto quello che c'hai dentro, promettendo che un bel giorno poi andrà meglio. Sai che impari come alzarti solo quando cadi a terra, non è pop, frate. Questa è quella. La gente sfrutta, ti toglie tutto quello che c'hai dentro, promettendo che un bel giorno poi andrà meglio. Sai che impari come alzarti solo quando cadi a terra, non è pop, frate. Questa è quella. È guerra aperta in tutto quanto lo stivale. So per certo che domani è un obiettivo che mi fa ricominciare. Vai, è forza bruta, io metto forza mentale. Intelligenza, sol torero anche a Valencia faccio fomentare. Mille storie che ho sentito raccontare. Una era vera, le altre 999 da buttare. Da buttare. Di 1000 euro che riesci a arrotondare. Una metà va in tasse, l'altra nelle tasche di un parlamentare. Parlando chiaro, ho visto chiaro chi è l'infame. Condivide o chi divide i pezzi in giro per le strade. Vedendo chiaro ho combattuto per restare, rispondendo punto punto dando esempio. Lezio magistrale. La gente ha fame, s'ammazza perché non può lavorare, lavora per non ammazzarsi, abusa per dimenticare. Passano gli anni ma il concetto è tale quale, state ancora a sette piedi sotto i colli della casta. La gente sfrutta, ti toglie tutto quello che c'hai dentro, promettendo che un bel giorno poi andrà meglio. Sai che impari come alzarti solo quando cadi a terra, non è pop, frate. Questa è quella. La gente sfrutta, ti toglie tutto quello che c'è dentro, promettendo che un bel giorno poi andrà meglio. Sai che impari come alzarti solo quando cadi a terra, non è pop, frate. Questa è quella. La gente sfrutta, ti toglie tutto quello che c'è dentro, promettendo che un bel giorno poi andrà meglio. Sai che impari come alzarti solo quando cadi a terra, non è pop, frate. Questa è quella. La gente sfrutta, ti toglie tutto quello che c'è dentro, promettendo che un bel giorno poi andrà meglio. sai che impari come alzarti solo quando cadi a terra, non è pop frate. Questa è guerra. DJ Taglierino, 2014, niente per nessuno. Questo è l'hip hop col cazzo, questa è guerra, ok? Tempi del presidente e del gatto, la storia non cambia, l'attitudine è la stessa. Sempre portare rispetto a chi è venuto prima di noi. One love. Cacho, no es un pocho híbrido. Yo soy rebelde, soy rebelde. Rebeldías. Yo soy rebelde. Ya, ya, ya. Keep eating. 105.250, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Allora, prima di spostarci a Roma per discutere di quanto vi annunciavamo poco fa, rimaniamo ancora per qualche minuto a Torino e continuiamo a dare qualche aggiornamento sulla questione dell'ISE, di cui abbiamo già parlato insomma in maniera approfondita sia nelle scorse puntate sia diciamo lo scorso anno, a partire dal momento in cui appunto questo nuovo sistema di calcolo è entrato in vigore da gennaio 2015, peraltro creando già il caos fin da subito, perché ricordiamo appunto che l'università era dovuta correre ai ripari per permettere ai vari centri preposti di avere il tempo di adeguarsi a queste nuove caotiche regole e appunto evitare che migliaia di studenti si ritrovassero ingiustamente a dover pagare more o addirittura il massimo delle tasse, appunto perché di fronte al caos creato da questo nuovo sistema. Ma adesso insomma con il nuovo anno accademico questo nuovo sistema di calcolo è a tutti gli effetti operativo e quindi cominciano a vedersene anche quelli che erano già gli effetti che qualcuno aveva previsto e da cui aveva messo in guardia già nei mesi scorsi. Sostanzialmente questo nuovo sistema di calcolo appunto va a scavare più a fondo, tiene conto di tutta una serie di altre cose e il risultato per molte famiglie è sostanzialmente un risultato falsato al rialzo, che fa sì che tutti sembriamo più ricchi senza aver guadagnato un centesimo di più, anzi magari in molti casi è stato proprio il contrario. E questo appunto escluderà da tutta una serie di servizi, di welfare, di agevolazioni, tra cui appunto quello delle borse di studio, ma soprattutto in maniera più capillare porterà un rialzo ulteriore della seconda rata delle tasse universitarie. Diciamo che appunto in un'università che ormai da alcuni anni è piuttosto silente a livello di mobilitazione, ci siamo scontrati insomma con la difficoltà di provare insomma a smuovere qualcosa dopo il ciclo No Gelmini. Sembra che questo tema stia invece un po' smuovendo qualche animo, ovviamente non ci vogliamo lanciare in previsioni di chissà quali appunto mobilitazioni autunnali, però appunto a fronte di alcuni anni di difficoltà evidente con cui collettivi e studenti si sono scontrati, sembra che ora di fronte a questo rischio concreto di dover sborsare ulteriori soldi per poter frequentare un'università che è già di per sé sempre meno accessibile, qualche cosina si stia muovendo. Chi in questi giorni insomma a Torino ma non solo ha avuto modo di provare a parlare di questa cosa ha notato come appunto ci sia un interesse da parte degli studenti e che questo soprattutto dia poi insomma sia un po' anche un grimaldello per far venire a galla tutta una serie di insofferenze, di insoddisfazioni, di frustrazioni, di aspettative deluse che oggi il sistema universitario crea. Quindi sarebbe anche interessante vedere se da questa questione poi si potranno aprire dei discorsi un po' più ampi rispetto a quello che è l'università oggi. Ma insomma, rimanendo sul tema dell'ISE, per quanto riguarda l'Università di Torino c'è già un appuntamento per la prossima settimana per provare un po' a confrontarsi assieme su questo tema e capire anche concretamente che cosa si può fare per contrastare questo ennesimo attacco sferrato all'università. Chiaramente ormai il nuovo sistema di calcolo è entrato in vigore e a tutti gli effetti operativo, però si può sicuramente fare pressione su quelli che sono gli enti locali affinché rimodulino insomma una serie di graduatorie, di parametri sulla base appunto di questo nuovo sistema di calcolo e quindi in particolare sull'università affinché che adegui la fasciazione delle tasse a questo nuovo sistema e su comune, regione, insomma sugli enti preposti al diritto allo studio perché facciano altrettanto per quanto riguarda le borse di studio che sappiamo già insomma non navigano in ottime acque ormai da qualche anno dopo i tagli clamorosi che ci sono stati sotto la giunta di coda, ma insomma l'amministrazione PD di sicuro non sta facendo di meglio per quanto abbiamo avuto modo di vedere fino ad ora. Quindi insomma, per discutere di tutte queste cose l'appuntamento sarà martedì prossimo al campus Luigi Einaudi nell'area delle aule, la cosiddetta Main Hall, per chi insomma ama queste diciture molto giovani del nuovo campus. L'appuntamento sarà appunto martedì 13 ottobre alle 13:30, quindi lì ci ritroveremo per capire un po' assieme il da farsi, soprattutto a chi andare a chiedere conto

Ok. Et j'habite rue de la vie, rue de la joie, rue de l'ennui, rue de l'envie, rue de la foi, et rue du courage, ruelle du boucan, sentier de la rage, avenue rouge sang. Voilà où je marche, où je glisse, où je prends des risques, voilà où je crache, miss, voilà où je pisse. Rue du voisinage en couleur, entre douleur et bonheur, métissage, un mélange de valeurs, où les rums sont au schéma, les rums sont entre eux, rêve de gratter des milliards. Rue de la française des jeux, rue de la lassitude, impasse des vermines, ceux qui ont loupé leurs études finissent les mains dans la résine. Rue du crevard, rue du monstre qui ne lâche pas un radis, ni un sourire, ni un spar. Lui, un peu couche la traîne, rue de l'insomnie, la tête pleine de cauchemars qui a raté sa vie. Et je te parle d'où je traîne, de mes potes, de mes peines, de nos pleins frères, ça c'est nos rues. Soit on s'aime, soit on s'aime, soit on s'aide, ou on se ken en fait, mais ça c'est nos rues. Je te parle d'où je traîne, de mes potes, de mes peines, de nos pleins frères, ça c'est nos rues. Soit on s'aime, soit on s'aime, soit on s'aide, ou on se ken, car tu sais, moi. J'habite rue des préjugés sévères et gratuits, là où les sœurs pour un rien sont salies. Et ici, sentier de l'amour plutôt discret, la pudeur et de rigueur, où l'on s'aime en secret, ok. Rue de l'amitié, héritier de ces soirs et si longs, à jacter, à se refaire le monde. Rue des faux sentiments, rue du châtiment, avenue du ciment, des tauliers du bâtiment. Boulevard des beaux parleurs, rue des beaux quartiers, rue des dealers, rue des brancardiers. Et avenue des cœurs brisés, des gosses traumatisés, à l'enfance glacée, qui vivent dans leur passé. Des parents lassés, des robes sous tension, qui ne savent embrasser qu'à l'aide d'un mousqueton. Mais bon, pour dire une chose, des choses ils s'en passent quoi. Nos villes sont pas roses, mais nos rues on s'en passe pas. Et je te parle d'où je traîne, de mes potes, de mes peines, de nos pleins frères, ça c'est nos rues. Soit on s'aime, soit on s'aime, soit on s'aide, ou on se ken en fait, mais ça c'est nos rues. Je te parle d'où je traîne, de mes potes, de mes peines, de nos pleins frères, ça c'est nos rues. Soit on s'aime, soit on s'aime, soit on s'aide, ou on se ken, car tu sais, moi. Et j'habite rue de la détresse, rue des fleurs fanées, rue des princesses, la Méditerranée, près du boulevard de la tristesse, avenue de mes faiblesses, rue de la maladresse, Ray, voici mon adresse. Rue de la déconne, les frères fument des cônes, rêvent d'un trône, mais ne payent même pas leur chrome. Merde. Rue des Noirs, rue des Tos, rue des Krell, rue des Bretons, des Bicots, en gros, c'est des Spul. Rue des toutes épreuves de l'avenir corsé, des femmes veuves ou des mères divorcées. Rue cosmopolite, c'est l'Afrique, l'étranger se multiplie, là où les Schmitt viennent y faire des safaris. Et boulevard de la corruption, rue des sentiers pis, ex-Lascar, qui a troqué sa casquette pour un képis. Pour dire une chose, des choses il s'en passe quoi. Nos villes sont pas roses, mais nos rues on s'en passe pas. Ça c'est notre rue, on y vit ou on y traîne, viens donc les voir de plus près. C'est plutôt rue de la peine, non pas rue de la paix. On y vit ou on y traîne, viens donc les voir de plus près. C'est plutôt rue de la peine, non pas rue de la paix. Et je te parle d'où je traîne, de mes potes, de mes peines, de nos pleins frères, ça c'est nos rues. Soit on s'aime, soit on s'aime, soit on s'aide, ou on se ken en fait, mais ça c'est nos rues. Je te parle d'où je traîne, de mes potes, de mes peines, de nos pleins frères, ça c'est nos rues. Soit on s'aime, soit on s'aime, soit on s'aide, ou on se ken, car tu sais, moi. E 36 sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Siete all'ascolto di Parole Ribelli. E allora andiamo avanti con questa puntata di martedì 6 ottobre. Maker Faire per chi? Ne parlavamo in apertura, appunto. La Sapienza propone questo grande evento, fa ridere chiamarlo così, però di fatto questo è, appunto chiamato Maker Faire, una fiera, diciamo, di creativi. La vediamo alle magliette del merchandising che dicono Veni Vidi Creai, riprendendo, diciamo, il Veni Vidi Vici romano, quindi giocando tra l'identità della Roma storica e l'innovazione di questi bellissimi tempi moderni. Il 16, il 17 e il 18 ottobre 2015 alla Sapienza, appunto, si scopre, si inventa, si crea la più grande fiera dell'innovazione, quindi stand espositivi, realtà internazionali da tutto il mondo, progetti, diciamo, tra i più all'avanguardia, ma giustamente ovviamente Sapienza Clandestina e i compagni del Tresserrand Occupato si chiedono Maker Faire per chi. Siamo in collegamento con Francesco da Roma. Francesco, ci senti? Ecco, vi sento, ciao a tutti e a tutte. Ciao Francesco, allora appunto siamo qui a chiederci insieme a voi un po' questa Maker Faire per chi. Insomma, il 16, il 17 e il 18 ottobre l'università sarà completamente chiusa, blocco della didattica, biblioteche, facoltà, laboratori, ma addirittura l'ingresso all'università diventerà a pagamento in maniera obbligatoria. Non si potrà dire vado a far lezione, lasciami stare, bensì si potrà usufruire dello sconto studenti da 10 a 4 euro. I lavoratori saranno mandati in ferie forzate, insomma un blocco totale di quella che è diciamo la vita universitaria, per far spazio a Intel, Team, Microsoft, Eni, BNL e soprattutto al grande palcoscenico del lavoro gratuito, sembrerebbe. Quindi diciamo l'università, la Sapienza sceglie bene a cosa dare spazio, dà un messaggio abbastanza chiaro rispetto a quali sono le priorità dei saperi che vengono prodotti e dove dovrebbero essere reinvestiti. Tu appunto dici, nel senso di, io mi fermo qui, ovviamente. Hai detto anche molto, diciamo, inquadrato bene quello che succederà la prossima settimana qui alla Sapienza, dove dal 15 anche per l'allestimento sarà chiuso tutti i cancelli della città universitaria, i lavoratori amministrativi, ma anche i ricercatori, quindi tutte le segrerie, tutti i centri di ricerca, i laboratori, i dottorandi non potranno andare a lavorare, chi avrà da prendere ferie obbligatorie, quindi insomma un malcontento, ma già da lunedì, quindi da ieri, parte dell'università non è agibile per la costruzione di questi tendoni giganti che saranno poi la base dell'allestimento di questa enorme fiera. E questa enorme fiera che viene definita un po' da gli organizzatori, ciò che unisce scienza, fantascienza, tecnologie, divertimento e business, che è raccontata anche da il rettore e la governance dell'Ateneo come una grandissima opportunità per la Sapienza, in linea a un cambiamento della politica culturale sempre dell'Ateneo Romano, per cui va accolta con gioia questa iniziativa, questa 4 giorni di chiusura, perché porterà la Sapienza al centro di dinamiche internazionali. Quello che succederà in realtà è che sì, sarà al centro, ma sarà al centro dell'occhio vigile degli sponsor che tu ben citavi prima, che sono Team, Intel, Microsoft, Eni e BNL, solo per citarne alcuni, portare il loro sguardo a caccia di innovazioni e eventuali investimenti da fare su progetti più o meno interessanti. Quello che quindi avverrà in quei 4 giorni, più che una grande occasione per gli studenti e le studentesse che ne sono venuti a conoscenza o per caso, perché da ieri hanno visto capannoni sorgere nei vari viali dell'università, o perché passando per la metro hanno visto delle pubblicità e non certo per processi partecipativi o di coinvolgimento di tutta la componente studentesca, anche dei dottorandi. Quindi un qualcosa che viene totalmente dall'alto, fatto solo per alimentare quel discorso di università azienda che più e più volte ne abbiamo parlato e abbiamo denunciato all'interno dell'università, ma è quello, è dare una piattaforma, una vetrina per i privati, per gli sponsor, per chi può e vuole investire nel mondo della ricerca e far incontrare alcuni studenti sì, ma quei maker, sono questi costruttori di nuove piccole tecnologie che esporranno i propri prodotti nella speranza di essere uno di quei mille che in qualche maniera ce la fa, che svolta, perché viene investito di insomma finanziamenti da parte di queste multinazionali. Quindi insomma più che un'occasione importante per gli studenti è un'occasione per alimentare lo sfruttamento e le dinamiche che il capitalismo introduce dentro il mondo delle tecnologie e il mondo dell'innovazione. Quindi da una parte ne stiamo portando avanti con questa campagna Maker Faire per chi, una grossa critica a che cos'è questo Maker Faire, che cos'è come questo concetto di innovazione, queste tecnologie che vengono portate avanti. Dall'altra parte, importanti sono sull'accessibilità. Come dicevi te all'inizio, gli studenti dovranno pagare, non potranno andare nelle biblioteche perché saranno chiuse, nei propri dipartimenti perché saranno chiusi, non potranno fare seminari o esami, ma dovranno pagare per entrare dentro l'università, essenzialmente. Pagare 4 euro per entrare in uno spazio che dovrebbe essere accessibile e aperto tutti i giorni. Quindi sicuramente questa Maker Faire non è per gli studenti, non è neanche per i lavoratori, non è neanche per i ricercatori che si trovano sottratti il territorio banalmente dove vivono tutti i giorni, non è neanche per la costruzione di un sapere acritico e libero dai profitti e da interessi privati, perché è proprio questo, è la costruzione di saperi, di tecnologie fortemente legate a interessi di multinazionali di vario genere. Quindi questo vuole questa campagna che è iniziata insomma da ieri, vuole lanciare questa grossa denuncia per smascherare la narrazione che i capi di Maker Faire Roma e Gaudio in persona stanno facendo tra articoli, lettere agli studenti e cartelloni pubblicitari. Vuole ribaltare la narrazione per parlare direttamente a quella componente studentesca, ma anche a quella componente di lavoratori che stanno vivendo un po' diciamo male questa situazione di invasione esterna, per dar vita poi la prossima settimana, martedì prossimo, una giornata di mobilitazione che è ancora ovviamente da immaginare con chi prenderà parte a questa campagna, ma sicuramente andrà dritta al nocciolo della questione. E poi sicuramente abbiamo questa 4 giorni di chiusura dell'università che non ci vedrà silenziosi a casa, bensì anche lì vorremmo rompere le ruote di questo ingranaggio per far capire che dentro l'università rettori di turno, privati di turno, non possono fare il bello e il cattivo tempo, ma ci sta una componente studentesca che a questo non ci sta e che vuole anche veramente riprendersi quegli spazi che sono nostri tutti i giorni. Ma, sicuramente intanto ti cito scusate, con le parole proprio degli organizzatori della Maker Faire, era interessante rispetto al passaggio che tu evidenziavi anche dell'avvenire a sapere dalla pubblicità in metro che la Sapienza sarà chiusa 4 giorni e che probabilmente devi tenere il biglietto, così ti fanno anche lo sconto, perché se l'hai fatto dopo averti chiesto 1,50 euro per una corsa su un treno scassato. Comunque questi maker parlano proprio di maker movement, nel senso che la Maker Faire è il più grande evento di innovazione al mondo, una mostra dedicata a tutta la famiglia che mette al centro creatività e innovazione e celebra il maker movement. Appunto è simpatico, diciamo, il contrasto simpatico o tragicomico a seconda il contrasto tra l'effettiva distanza che si gioca tra questi eventi e la vita del quotidiano universitario e quella che è la loro narrazione. Sembrerebbe ci sia addirittura un movimento dietro questa fiera e non dei soldi. E a questo proposito ti volevo un po', diciamo, interrogare chiederti un po' se non sia da leggere anche un po' in relazione alla fase più ampia che la città di Roma sta passando, in un momento in cui andiamo verso il giubileo, in un momento in cui la prefettura ha pieni poteri, abbiamo visto la grafica, diciamo, che paragonava Gabrielli a uno sceriffo, che di fatto è molto calzante. Bene, questa geografia romana che si sta ridefinendo, diciamo, in chiave sottrattiva per gli spazi di auto-organizzazione, possiamo, diciamo, secondo te mettere in relazione un po' evidenziare il contrasto tra la prima pagina di Repubblica che grida allo scandalo per un'assemblea dei lavoratori nel Colosseo e invece l'esaltazione dell'università chiusa ben 4 giorni per fare spazio a poi di fatto quella che è una grande macchina di profitti, e quindi possiamo mettere anche in relazione, diciamo, laddove si chiude uno spazio per il confronto tra i lavoratori e si arriva subito la risposta del governo che dice mai più assemblee senza un tot di preavviso, dall'altra parte poi vediamo che appunto invece se un'università che è quella più la più alta densità di iscritti in Europa, perde 4 giorni di appunto, come dicevi tu, ricerca piuttosto che reddito per chi quell'università ci lavora, allora sembrerebbe che di fatto non ci sia problema. Infatti sono, le questioni sono due essenzialmente su questo che stai dicendo te. La parte è la questione del grande evento, che essenzialmente lega il giubileo, lega tutte quelle situazioni di stato in qualche maniera di eccezione che subiscono quegli spazi in cui avviene un grande evento, può essere dal G8 fino a qualsiasi evento che mette in mostra poi anche i poteri forti o chi dentro l'università in questo momento ha un'influenza molto molto importante. Quindi la gestione è quella che poi avviene nella città a livello macroscopico, quindi un sottrarre gli spazi a chi li attraversa quotidianamente e farli pagare, proprio una dinamica di commercializzazione, che quindi è la seconda questione, e quindi da una parte ti tolgono il tuo spazio, te lo fanno pagare, e dall'altra parte quello che avviene essenzialmente è una fiera del commercio, della vendita. Quindi quando ci sono eventi al contrario di un'assemblea dei lavoratori che chiede di essere giustamente pagata, che gli vengono riconosciuti i propri diritti, quindi blocca il servizio di cui fanno parte, è un problema, perché blocca la vendita, blocca il turismo, blocca l'economia secondo il pensiero di chi ci governa. Invece eventi come questi sono pensati proprio per sbloccare investimenti, aumentare il denaro che gira poi insomma intorno sempre alla solita a gruppi che gestiscono l'università e poi probabilmente anche la città. Quindi quello che sta avvenendo l'università è molto simile a quello che avverrà probabilmente nel giubileo, quindi stati di eccezione, un ingente presenza anche di controlli dalla Digos insomma anche alle guardianie, lavori forzati, un investimento enorme per un evento, mentre dall'altra parte l'assurdo è che quest'anno, soprattutto con i nuovi parametri ISE e con l'ISPE, abbiamo un abbassamento della possibilità di borse di studio, di alloggi, quindi meno garanzia del diritto allo studio, e gli studenti si trovano più ricchi senza avere neanche più un soldo in tasca. Insomma, questi sono tutti contraddizioni e paradossi che noi vogliamo e stiamo facendo uscire su questa questione, che danno un po' l'assurdo della trasformazione e delle trasformazioni che stanno avvenendo dentro i nostri atenei. Ma, guarda, io appunto sicuramente faccio un parallelo che risulterà un po' forzato, però credo sia poi di fatto calzante, nel senso che questa Maker Faire mi sembra un po' per il sapere, per l'università, quel modello di sviluppo che l'alta velocità rappresenta per il territorio, nel senso che appunto una messa a profitto selvaggia, una escludere completamente i saperi che non siano già direttamente funzionali, efficaci, spendibili in un mercato del lavoro le cui regole sono sempre più a ribasso per chi vi entra, poi non potendo neanche scegliere altro, perché diciamo non è che ci sia un'altra parte di mondo. Hai proprio ragione, il discorso sì, è un parallelo forzato sicuro, probabilmente, però è la questione del grande evento, la questione del far passare come progresso, innovazione, futuro, e quindi su cui investire non solo diciamo risorse, ma proprio anche il proprio tempo, i propri ragionamenti verso questa modalità di università, che diventa un centro congressi, una vetrina per chi ha già delle possibilità o per finanziatori esterni, per un sapere che punta a questo e non punta invece a un allargamento, a una partecipazione di tutti. Quindi sono paralleli forzati, ma che in realtà indicano la stessa modalità di aggressione al territorio da una parte, al sapere dall'altra. Ma infatti sicuramente, nel senso, abbiamo visto facoltà, saperi più, diciamo, storicamente inquadrati, come la medicina piuttosto che architettura, queste le professioni, diciamo, che già hanno completamente, hanno anticipato una deriva nella funzionalità, nel senso che si fa ricerca solo su ciò che può essere brevettato poi. Allora questo, nel momento in cui la tecnologia, le scienze, diciamo la tecnica anche, si diffonde e il livello di massificazione e di padronanza di questi strumenti si allarga a macchia d'olio, dall'Università La Sapienza arriva un invito molto chiaro: allora fatti venire un'idea e impara anche a fartela venire in fretta, perché la Make & Fair ha solo 4 giorni e dentro ci sarà un tempo entro cui presentare un bando, e quindi mi raccomando che sia l'idea giusta al momento giusto, e soprattutto fai un bel sorriso, scrivi in vendita e presenta te stesso e cerca di autovalorizzarti, perché quanto vali ce lo devi dire tu, ti devi rendere appetibile e far comprare tanto quanto. E allora sicuramente la domanda del per chi già apre uno spazio che contrappone all'autovalorizzazione la controvalorizzazione, ovvero ci auguriamo che si apra appunto uno spazio per poter poi di fatto andare ad attaccare direttamente i contenuti che quest'università veicola. Allora il parallelo che appunto si faceva, grande opera, grande evento, se il treno ad alta velocità è stata una delle tappe, cioè non il fine ma la tappa di un percorso che mette in discussione un modello di sviluppo, che questa Maker Faire possa essere la tappa di un percorso che mette in discussione il tipo di sapere che ci viene somministrato e con cui ci viene richiesto di presentarci per poter accedere a quelli che ancora sopra hanno l'insegna del luogo del sapere, ovvero c'è scritto università, ma poi di fatto si sono trasformati in bancarelle delle nostre idee, mercatini delle nostre capacità. Francesco, appunto, noi rimaniamo aggiornati, perché in avvicinamento alla fiera poi andremo sicuramente a chiedervi come va, qual è l'umore in università. Insomma, saranno 4 giorni un po' da stare a vedere. Sicuramente, come tutte le cose, non si gioca questa partita solo in questi 4 giorni, ma appunto sicuramente anche la partenza può essere interessante. Sì, ci interesserà sicuramente giocarcela sicuramente su questi 10 giorni di campagna, e poi sicuramente anche la settimana, il weekend dopo, avremo già un festival che abbiamo lanciato dentro l'università, un festival creato dal basso, dai collettivi delle facoltà, da Sapienza Clandestina, che porterà in qualche misura le nostre idee sul sapere, sui modi anche di fare autoformazione, di valorizzare quello che noi andiamo poi a fare e a costruire tutti i giorni nelle nostre aulette, nei nostri spazi dentro l'università. E anche quella sarà quindi anche proprio l'opposizione nel pratico rispetto a quello che dicevi te, di un'idea di sapere che loro vogliono e stanno imponendo, a cui bisogna andare contro costruendone qualche maniera un'alternativa. Ci aggiorneremo prossima settimana. Va bene, allora Francesco, grazie mille. Appunto, noi invitiamo tutti e tutte dalle libere frequenze di Radio Blackout a partecipare domani alle ore 12:30 alla Sapienza, a Piazzale Aldo Moro, al pranzo sociale, il primo incontro pubblico della campagna Maker Faire, ma per chi? E ci riaggiorniamo in vista della fiera. Ciao a voi. Ciao Francesco, grazie. Ciao, ciao. Bulls. Razor blade, soaked in the tongue. Chop your fucking head. I murder the trap. Pipe shit, blow up a mic. shit. Who wanna fuck with this? You ain't ready for war. Razor blades under the toes. Chop your fucking head. I murder the track. Hype shit, blow up a mic shit. A motherfucking beast on the mic. You gon' die from La tua this. Vita nelle mie mani, sorridi e recidi il collo. Cavaliere senza testa in giro come a Sleepy Hollow. Parigi sta già chiamando le pagine di un racconto che si scrive con il sangue regale che cade al suolo. Temujin rap, taglia di netto la giugulare. Sono arcobaleni rossi in gola, prova ad ululare. La tua regina adesso la smette di eiaculare. Le brioche le può pure buttare. Anelli di Saturno intorno all'anulare. Taipan, flusso da serpente incantatore. Ti consuma, parlo ogni lingua e nessuna come Salvatore. Lucido la baionetta fredda infissata nel cuore. Salome, bacia le labbra morte del battezzatore. Sai com'è? Chi sta vicino al sole poi si schianta e muore. Sei un millantatore in strada contro Jack lo Spartatore. La mia banda è porporata ma Nico deista. Ghigliottina, Robespierre, Chardonnay alla tua sconfitta. Razor blades under the toes. Chop your fucking head. I murder the track. Hype shit, blow up a mic shit. Who wanna fuck with this? You ain't ready for war. Razor blades under the toes. Chop your fucking head. I murder the track. Hype shit, blow up a mic shit. A motherfucking beast on the mic. You gon' die from la this. La paura che hai negli occhi si riflette sulla lama. Una dama d'ossa ghiacciata ed aspetta sulla pedana. Perché il sangue nelle piazze è la gente che lo reclama. Ed è il motivo per cui grida nelle strade poi mi acclama. 21 gennaio e i sipari calano dall'alto. Sanso, capolinea per De La Croate, Mulen e Danto. Siete capi conficcati su picche levate al cielo. Gli occhi vuoti fissano l'incanto sbarrati dal cielo. Abbiamo strati somatici mannari. Destini incrociati come le dita nei rosari. Ma gli spiriti più antichi dei vasi degli antiquari. Delle teste dei santi decapitati chiuse dentro i reliquari. E tu guardami bruciare nella notte come i catari. Il fumo verso l'ignoto cerchiato da mille angeli. Non sei un re, tu sei l'ennesimo fallito con la testa in una cesta. Luigi XVI. Razor blades under the toes. Chop your fucking head. I murder the track. Hype shit, blow up a mic shit. Who wanna fuck with this? You ain't ready for war. Razor blades under the toes. Chop your fucking head. Murder the track. Hype shit, blow up a mic shit. A motherfucking beast on the mic. You gon' die from this. Au, gente del Borgata, colle del fomento, a voce del popolo, Roma. Ah sì, è la voce del popolo, Ronzu All Stars, e ci puoi credere, dalle strade più sporche. Ah sì, au, au. Vox Populi è quello che do. La voce del popolo e la spito dentro un microfono. Sto scomodo, racconto i danni che me fanno e quelli che me provoco. Ancora sotto effetto disinfetto una ferita con qualcosa d'alcolico. Rap storico, combatto sta guerra da quando me sveglio fino a quando me corico. La gente è stanca e lo grida più forte. Qua non se sogna se sfondano porte. Col fomento la Borgata sfida la sorte. Stanotte te guida fino alla morte. Dalle strade più sporche trasmette. Lo sai che non smette, che non te ce mette. Lascia perdere se io non uso le berette qua per difendermi. Do stecche al muro nel punto più duro. Non vedo il futuro e non credo a nessuno. Io non cedo al ricatto di qualcuno. Do la voce del popolo e vaffanculo. Dimmi euro, Vox Populi mio stereo. Colle del fomento GDP versus l'impero. Scrivo oltre la mediocrità col pensiero. Dentro la città, per le strade sotto il cielo. Sono dove voglio essere. Ma i problemi e le soluzioni in mano le stesse. Mai che cambiasse qualcosa. La gente si lamenta ma poi si commenta da sola. Sangue amaro per l'avidità. In mezzo a tanta storia e poca voglia de fa. Qua i sordi fanno di uno scemo un re. Ed è eterno purgatorio per quelli come me. Te vedo quello che non sai, guarda. Sono la voce della gente che non può parlare. Scrivo tutto sopra il muro dove il sepo fa. Duralex, Edlex, Vox Populi Rap. tempo non scorre, corre, mette fretta. Voci dal popolo in diretta tra bar e bar per mantenere sta testa intatta. L'asfalto sotto i piedi scrotta e se ti siedi non t'aspetta. T'ammazza, GDB alza manetta. Esci di casa con sta roba e leggi indossa scritta. E sì, che t'appartiene qui, non trovi affitta scene. Trovi il mondo che c'è intorno e che conosci bene. Capo di me stesso, Daniele, GAC supremo. Dal basso come lui, in mezzo al mare terreno. Dal quotidiano impressi, segni di come messi stiamo. Persino un mondo che va a pezzi, ma qui campiamo. Zona per zona, io Roma ti amo. Scena per scena, porto con me quel gusto lo strano. Supremo qua, no Superman, ma un uomo. Voci dal popolo, perché da là che veniamo. Cos'è che c'è a Cannace? Noi siamo come siamo, non ci piacciono le chiacchiere. Ricorda te ste facce, tacce. Calore se te piace, le cazzate combattile. Lo sai che c'è a Cannace? Noi siamo come siamo, non ci piacciono le chiacchiere. Ricorda te ste facce, tacce. Calore se te piace, le cazzate combattile. Ah, possino da tante cortellate per quanto fai rate, per quanto te la stai in basti con le tue cazzate. Questo è Vox Populi e che ve credevate? A noi non ci smuovono manco con le cannonate. Dalle borgate fino al centro ve coprimo tutti, ve famo fare i botti, ve raccattiamo a tocchi. Mandiamo a casa rappers farlocchi, perché dimo solo quello che passa sotto l'occhio. Stile da cecchino e ce lo sai che spacca. Porto Pasquino, Rugantino e pure il mio patacca. Dall'attico di lusso alla peggio baracca. Sta roba resta addosso, zì, e non se stacca. Attacca frontalmente, prende e non chiede. Parla in nome di tutta la gente che non crede più a preti, guardie, banche e governanti. Politici del cazzo, giornalisti e garanti. State tutti quanti alla catena, dal primo cittadino fino all'ultimo sfigato della scena. Noi, schiena contro schiena, GDP e colle. Un cervello a sonagli e una lingua con le molle. Lo sai che c'è se me capisci bene. Tanto costa iene, serve a poco che me sgole, niente me ne viene. Voce del popolo come la voce che vive dove la gente è stanca e non vuole più sentir parole. È il sudore del lavoratore sul furgone formagone che chiude in passivo pure sta stagione. Non cerca prove, te ce copre, porta notti di passione e non parla certo per le banconote. Siamo GDP, per definizione porta Vox Populi come una volta c'era lo stornellatore. Non era andare in televisione, era parlare alle persone, era mettere amore dentro una canzone. Sto vicino alla mia gente, ma ho insegnato che a sto mondo se non metti niente, niente è pure risultato. Non ho mai rinnegato e non ho mai scordato ogni persona ed ogni fatto che m'hanno segnato. Cos'è che c'è a Cannace? Noi siamo come siamo e non ci piacciono le chiacchiere. La mia musica è Vox Populi e così rimane. Non vi preoccupate, quale cose non sono mai cambiate. Cos'è che c'è a Cannace? Noi siamo come siamo, non ci piacciono le chiacchiere. Ricorda te ste facce, tacce. Calore se te piace, le cazzate combattile. Lo sai che c'è a Cannace? Noi siamo come siamo, non ci piacciono le chiacchiere. Ricorda te ste facce, tacce. Calore se te piace, le cazzate combattile. Allora 12:06, proseguiamo con Parole Ribelli, ci avviamo verso l'ultima parte della puntata, ci scusiamo per il taglio brutale di quest'ultimo brano, ma ve lo rifaremo sentire tra pochi minuti. In questo momento siamo in collegamento telefonico con Maurizio Pagliassotti, che intanto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao Maurizio, ci senti? Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, con te volevamo presentare brevemente lo spettacolo di Sistema Torino che si terrà la prossima settimana per, insomma, presentare questa iniziativa, spiegherà anche un po' come funziona, quindi niente, direi che ti lascio subito la parola. Allora, la prossima settimana dal 14 al 17 alle ore 21 presso la Sala Gabriella Poli di Via Garibaldi 13 avremo finalmente la grande opera definitiva. Basta cazzate, basta TAV, basta brevemi, basta tangenziali. Noi vogliamo inondare la pianura padana completamente con il mare, trasformarla in un grande hub marittimo. Io penso che questo sia un progetto che piace a tutti, che sia un progetto che incontra il 100% dei consensi, perché a tutti piace il mare, quindi il mare deve essere portato all'interno della pianura padana. Export 2022, lo spettacolo che porteremo in scena, è uno spettacolo surreale, grottesco, che tratterà in maniera feroce del problema delle grandi opere, di lapidazione del patrimonio pubblico italiano e anche dei rapporti tra i poteri, quindi i poteri intesi come la magistratura, i poteri intesi come chi controlla, i poteri intesi come le fondazioni bancarie, i partiti, quella rete che si pone alla base di tutte le grandi opere italiane. Bene, sappiamo, dicevi appunto che questo spettacolo ha avuto una lunga gestazione, quindi vedrà finalmente la luce. Dal punto di vista tecnico sappiamo anche che si può sostenere appunto questa, questo spettacolo. Lo spettacolo è un prodotto artigianale, molto bello, molto, molto carino, stiamo provando adesso. È un prodotto artigianale che ha come epicentro Massimo Giovara, il nostro attore, intorno al quale mette un piccolo uomo, un piccolo imprenditore che si ritrova all'interno della mega macchina. E abbiamo utilizzato i nostri soliti canoni comunicativi, quindi l'ironia, la ferocia, ma anche l'inchiesta, perché raccontiamo in realtà ciò che sta accadendo in questo momento nel paese. È uno spettacolo per tutti, cioè non vuole essere uno spettacolo per una nicchia che sa già tutto delle grandi opere, che sa già tutto della vendita del patrimonio pubblico, che insomma va a cercare conferme. Noi in questa prima fase cerchiamo supporto finanziario ed economico da questa nicchia che verrà a vedere lo spettacolo probabilmente nei prossimi 4 giorni, ma per poi portarlo in giro in tutta Italia, per portarlo nelle feste di paese, in quei luoghi dove semplicemente di questi argomenti non si sa nulla. Questo è il nostro obiettivo politico. Beh, questo sicuramente è importante, insomma, utilizzare anche i mezzi, insomma, dell'arte, del teatro per parlare, insomma, a un pubblico che non sia quello che incrociamo, insomma, nelle nostre vite quotidiane, che probabilmente su queste cose è già informato, ma cercare anche, appunto, tramite mezzi anche diversi da quelli canonici, provare a discutere di questi temi. Quindi noi, come dire, rilanciamo volentieri l'appuntamento anche dai microfoni di Radio Blackout, avremo modo di ricordarlo anche la prossima settimana, poi a ridosso dell'evento. Per adesso ti ringraziamo, insomma, per averlo presentato assieme a noi, ti chiediamo magari di ricordare appunto di nuovo le date e il luogo, e poi insomma ci preoccuperemo di fare altrettanto la prossima settimana. Dai, ok, 14-17, sala Gabriella Poli, via Garibaldi 13, finalmente il mare. Va bene, Maurizio, ti ringraziamo e a risentirci presto. A presto, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer y llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer gato que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la secuencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, y no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada. cansada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la sepia. 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace la sepia. :13 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Parole Ribelli continua ad accompagnarvi per una mezz'oretta e riprende, diciamo, vecchi argomenti e nuove questioni, nel senso che abbiamo affrontato, avevamo visto il caso del Bottillon che aveva visto prima di tutto migliaia di giovani radularsi in una piazza, ebbene sì, e non per un corteo, ma per un'esigenza, diciamo, altrettanto valida, che è quella dello stare insieme e del condividere, diciamo, una serata a divertirsi senza dover pagare. Bene, parliamo del Bottillon che aveva appunto visto in Piazza Cavour la sua prima edizione con successo strepitoso, che aveva poi diciamo, a cui era seguita la risposta di Fassino, che aveva dato degli incivili a questi ragazzi. Poi vabbè, diciamo, sorvoliamo sul cattivo gusto di altri ragazzi ancora che nel giro di poco dopo hanno fatto una festa segnando, diciamo, la differenza tra loro e i vandali del Bottillon che avevano ripulito tutto. Ma queste sono diciamo cose appunto di poco conto. Diciamo, cosa interessante su cui volevamo un po' tornare è che di fatto questa è una, che questa trovata sia stata intelligente, che abbia risposto poi a delle esigenze concrete, visto anche la risposta, cioè vista anche la partecipazione raccolta, l'hanno capito un po' tutti, l'hanno capito anche coloro che sul divertimento da sempre speculano. Vediamo infatti allo Chalet comparire questo evento Bottillon, un evento in cui sostanzialmente tu porti da bere, loro ti danno il ghiaccio e giustamente la gente si chiede: ma perché devo pagare per entrare? Dietro a questa, diciamo, molto, molto semplice domanda si racchiude poi di fatto anche il nodo politico su cui noi vogliamo andare a battere, nel senso che il fatto che il divertimento, la cultura, chiamiamolo come ci pare, nel senso l'intrattenimento e tutto ciò che è lo stare insieme, ma vediamo appunto, abbiamo parlato a inizio di puntata di Maker Faire, quindi anche solo il condividere saperi, appunto, che sia condividere saperi, tempo o quale che sia il modo con cui quel tempo vuole essere riempito, insomma, comunque la mediazione del denaro è un qualcosa da cui non si può scappare, pena l'essere i vandali del Bottillon contro il dover invece, diciamo, il Bottillon che piace alla nostra controparte è sicuramente quello che ha organizzato lo chalet a pagamento, controllato, sicuro, con i buttafuori intorno e nel piccolo ghetto dell'ubriacatura in cui i quartieri della Movida poi si riducono, a cui i locali poi effettivamente come i locali effettivamente si configurano. Ricordiamo lo chalet, 7-8 euro un cocktail, 3 euro una bottiglietta d'acqua, insomma non sono non un prezzo accessibile, non una serata da tutti i giorni. Allora invece di andare a fare dei prezzi decenti, invece andare a proporre un'offerta intrattenitiva che sia anche solo vagamente diciamo, attrattiva, che cosa, quindi abbassando appunto prezzi e aprendo porte, evitando file, buttafuori e tutta una serie di questioni, che cosa succede? Che il bottillon si trasferisce dentro allo chalet, quindi la risposta è porta tu da bere sostanzialmente. Quindi ovviamente questo qui pro quo rispetto al fatto che i ragazzi che avevano organizzato il bottillon si siano completamente bevuti il cervello, nel senso che abbiamo deciso di trasformare una cosa abbastanza, una cosa appunto collettiva, in la piccola macchina, la loro piccola macchina di soldi, ci teniamo, diciamo, a spezzare una lancia in loro favore e a dire a tutti e tutte che così non è, perché gli stessi organizzatori delle prime due edizioni, Bottillon Torino, hanno poi lanciato ora proprio un'altra data, il 9 ottobre, il 9 ottobre in Piazzale Valdofusi. Quindi diciamo, ironizzando anche sulla condizione economica studentesca, ricordate che nostalgia la salsedine nei capelli, rendendovi conto che la vostra pelle sta riprendendo il normale colorito biancastro. Quindi cancellate, ma siamo tornati a Torino, sta tornando anche il Bottillon, quindi cancellate tutti gli impegni venerdì 9 ottobre e cominciate a pensare a strani miscugli alcolici di sottomarca da portare con voi. Ecco, augurandoci che il tempo degli alcolici di sottomarca finisca prestissimo, comunque ci rifacciamo, diciamo, appunto, indirizziamo tutti e tutte su questo evento piuttosto che quello allo chalet, non perché di certo pensiamo che nessuno si mette all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout sia tanto deficiente da pagare dei soldi per portarsi da bere da casa, ma quanto per sputtanare il più possibile coloro che continuano appunto sulle nostre esigenze primarie, ovvero lo stare insieme a fare dei soldi. Sì, è interessante che nell'evento, diciamo, dell'altro Bottillon, quello che ci sarà in Piazza Valdofusi, insomma, non si cita esplicitamente l'evento invece dello chalet, però c'è scritto diffidate delle imitazioni, quindi immaginiamo che insomma i ragazzi siano venuti a conoscenza di quest'altro appuntamento che peraltro viene pubblicizzato e sponsorizzato, insomma, chiunque in questi giorni stia frequentando Facebook, a me continua a comparire in maniera ossessiva sui lati della mia bacheca, quindi crediamo che appunto il rimando sia proprio a quello. Insomma, ci fa piacere vedere che si cerca anche un po' di arginare questi tentativi di recupero di una serie di pratiche, di modi di stare assieme per metterli a profitto. Quindi niente, ci interessava dare insomma questa piccola notizia di colore così in chiusura. E noi appunto verso la chiusura ci stiamo avviando, ma abbiamo ancora l'appuntamento con Valderrama. Prima di presentarvelo vi lasciamo a un pezzo musicale. Mi segue, passo fra chi ciecamente crede e non si chiede. succede, non si concede manco uno spiraglio. Per questo apro tutte le difese a ventaglio e sto sveglio con un cervello a sonagli, imparando a camminare sulle corde andando avanti. Guardo dove tu non guardi, so accorto, perché so che solo in cielo non c'è disaccordo. È un punto come un cappio con al collo, è un altro grosso dubbio che mi accollo. Intanto cerco una qualche certezza, ma un mondo blindato e fortificato, peggio di una fortezza, e niente mi spezza o mi piega. Chiudo la tensione nell'odore della strada e vada come devo andare. C'è sta l'istinto che pure si se mette male fa sì che non mi dia per vinto, e sì che spingo su chi controlla il mio destino. Mi copia e incolla al centro di un mirino, mi apposta se cerco una risposta con il trucco che più gli sto vicino e più si sposta. La mia gente con sempre più domande, ma di chi so? Che manca poco, per questo devo andare alla grande. P-O-M-A-N-D-E. La mia testa con sempre più domande, ma di chi so? Che per capire mo devo subire alla grande. Tocca fai miracoli qua fuori, tocca stare allerta. Non si gioca qui, si affoga nella merda. Mi prendono per culo, ne so più che sicuro. Qui giocano col presente e mi rubano il futuro. Metto punti di domanda sul muro e non mi aspetto che risponda qualcuno. Ormai non rido e non mi fido di nessuno. Cammino per la strada e grido un grosso vaffanculo. Più duro lo strato che mi ricopre, più di uno i deliri su queste note. È più scuro il buio della notte, ma nessuno se ne accorge, la gente se ne fotte. Sto con gli occhi aperti, osservo ogni situazione, è un'emozione che conservo. Jake Masito e Manero il turco, i migliori motori e in più mettici il turbo. P-O-M-A-N-D-E. La mia gente con sempre più domande, ma di chi so? Che manca poco, per questo devo andare alla grande. P-O-M-A-N-D-E. La mia testa con sempre più domande, ma di chi so? Che per capire mo devo subire alla grande. Domande, domande, domande. E allora 12:24 sulle libere frequenze di Radio Blackout, come dicevamo poco fa, ci prepariamo a salutarvi riprendendo tra le mani un appuntamento che era diventato fisso sul finire dell'anno scorso, ovvero quello con le storie della buonanotte di Valderrama, questo progetto a metà tra il calcistico e il racconto, non solo che è nato come rivista, ma che poi ha avuto appunto anche uno sbocco radiofonico con queste storie appunto narrate che vi abbiamo fatto sentire. Quest'oggi vi faremo ascoltare Caccia Grossa al Codino. Leggo dalla breve descrizione del video che si tratta forse dell'ennesima storia inventata. I dettagli si accumulano, ma nessuno riesce ancora a crederci. La domanda che aleggia è: che fine ha fatto Roberto Baggio? Allora, per provare a rispondere a questa domanda, vi facciamo ascoltare appunto questa storia della buonanotte, poi ci risentiamo per i saluti. Sotto la mattina nell'estadio rinato dalla Rade Bologna, la preda palanate viene in asse nel recesso, mi viene in estrema reda guardia del selezionato nazionale. Ringonga se poi di cambio di pierna a chi viene il pibe. Candelo conmigo, già viene e quel pibe Valderrama le va a pegare, va qua abajo. De Colombia, che signor golazo, gol de Colombia all'altura del segundo finalista. Cruzado maniobra individual de nuestro pibe Valderrama. Le storie della buonanotte di Valderrama. La scrivania è coperta di faldoni di carte ingiallite, contratti con sponsor, contratti con società, cambiali, deleghe in bianco. Si riconoscono la stipula delle quote di una miniera in Perù e le bollette della luce della fazienda argentina, la dichiarazione di fallimento di un negozio di articoli sportivi col timbro del Tribunale di Vicenza. Fuori piove, la finestra è aperta e il vento la fa sbattere in modo lento ma continuo. La copia del verbale di polizia è in spagnolo ed è tenuta in bella vista al centro del tavolo, con il pallone d'oro del 93 ammaccato e pieno di bozzi, riciclato come fermacarte. Accanto al trofeo ci sono un bicchiere di vino rosso e un piatto mezzo vuoto. Fra gli avanzi si intravedono molliche zuppe di sugo, una foglia d'alloro rosicchiata e pallini di piombo estratti da quella che era stata una lepre e poi è diventata un coniglio alla vicentina. La libreria è quasi vuota. Ci sono alcune foto di calciatori autografate. Paolo Rossi, Diego, l'unica recente è quella di Messi. Poi alcune foto sfocate che sembrano scattate dalla panchina a San Siro. Uno dei pochi libri visibili è La saggezza del buddismo di Vincenzo Noia, edizioni paoline. Sull'attaccapanni un accappatoio scolorito, un giaccone di pelle strappato e un cappellino con la scritta Matame, sinote sirvo. Lo studio sembra l'ufficio di un pezzente arricchito. I tubi che viaggiano poco sopra al battiscopa di rovere non sono stati pitturati o nascosti. Vanno diretti alla stanza a fianco, una piccola sala da bagno con vasca e una risicata cabina doccia con sauna. Sugli asciugamani si riconoscono le iniziali ricamate con seta azzurro tenebra. R.B. Un uomo con i capelli lunghi e qualche filo di barba siede sul cesso, il viso fra le mani. Singhiozza e si pulisce la bocca con la canottiera, sporca di sugo e di sangue. È morto. Ma com'è morto? Le voci si rincorrono all'impazzata negli spogliatoi dei campi di calcetto del dopolavoro ferroviario. Per seminare il panico è bastato che uno solo degli uomini di mezza età, arrivati per la partita della domenica pomeriggio, sciabattasse verso le docce col cellulare in mano e leggesse la notizia. È morto il codino. Ma no, ma come? È morto il codino. Nessuno sa se sia vero. Era da mesi che non si avevano sue notizie, da quando aveva preso il patentino e rinunciato all'incarico di presidente del settore tecnico in federazione. Una carica fittizia, che lo stesso Roberto aveva pubblicamente messo a nudo come tale, l'ennesimo schiaffo morale a Olivieri. Abete aveva detto, abbiamo sempre parlato con Baggio e con Petrone, anche perché farlo con il primo senza il secondo non era possibile, ma era chiaro e naturale che lui avesse un rapporto di fiducia preferenziale con Petrone. Lo ha sempre seguito passo passo. Nessuno riesce a crederci, ma ora i dettagli si accumulano. Qualcuno ha appena pubblicato la sua data di morte su Wikipedia. Ma è una bufala, non può essere morto il codino. Forse è l'ennesima storia sul suo conto, come qualche mese prima, quando si diceva fosse uno dei candidati ad allenare la nazionale. Che fine ha fatto il codino? Qualcuno dice si sia ritirato in Argentina, nella sua Chiquita, la fazenda di 360 ettari nella Pampa. Gli animalisti dicono abbia addirittura partecipato a una battuta di caccia al puma. Altri sono convinti abbia definitivamente lasciato la vita mondana e il calcio. Dicono si sia rasato i capelli per intraprendere quella monastica. Nel centro buddista di Corsico, il più grande d'Europa, inaugurato da Roberto, i fedeli negano di averlo visto e suggeriscono di lasciarlo in pace. In Giappone qualcuno annuncia che sta finalmente per firmare e tornare in campo, dopo anni di trattative, per una specie di campionato reality show. Gli indizi sono tanti, ma lontani dal costituire una prova. Su internet non ci sono referti medici o di polizia, solo pettegolezzi, storie, leggende metropolitane. Il negozio di Tiene, vicino Vicenza, è abbandonato da tempo. Le vetrine scheggiate, coperte alla bene e meglio con sacchi neri della spazzatura e nastro adesivo. Dicono abbia chiuso per la crisi, ma la verità è che Roberto non ha mai voluto imborghesirsi, seguirne gli affari. Era stato un amico molto intimo a convincerlo, gli aveva detto «è un'occasione, pensa al futuro, alla peggio lo lasci gestire a Eddie». Dietro la plastica si vedono ancora alcuni manichini smembrati, qualche maglietta di cotone sgualcita con la serigrafia della sua acconciatura e il 10. Roberto si era fatto anche convincere a chiamarlo Roberto Baggio Sport. Non gli era mai piaciuto vedere il suo nome sull'insegna. Un'altra cosa che aveva sempre odiato erano i soprannomi. Raffaello, Divin Codino, Coniglio Bagnato. Chi glieli aveva affibbiati non aveva mai capito fino in fondo la sua personalità. In effetti, nessuno sembra aver mai capito l'uomo Roberto. Il calciatore, forse, dicevano, il più forte italiano di sempre. Quello che i ragazzini evocavano nei cortili quando partivano palla al piede. Il suo nome scandito con l'intonazione arrotata e increscendo di Pizzul. Roberto! Roberto! Fino all'intervento a gamba tesa di un avversario più grosso. Un disperato e finale. Dino! I vecchi, invece, avevano sempre preferito Rivera. Erano arrivati persino a schierarsi con i suoi nemici come Lippi, Capello, Olivieri. Dicevano che non giocava per la squadra, che era una prima donna. Tanti avevano barattato la delusione bruciante di un mondiale perso ai rigori per la conferma delle loro critiche alla sua scarsa personalità. Nessuno ha mai capito cosa ci fosse dietro a quegli occhi sottili e di colore blu tendente al grigio, furbi e al contempo assenti. Dal suo modo di giocare si poteva pensare che fosse un genio, un uomo acuto con una superiore velocità di pensiero, un artista, un poeta. Ma Roberto non ha mai amato gli elogi o i sonetti, che pure gli sono stati dedicati ripetutamente durante la lunga carriera. Quando nel 94 Madonna lo invitò, pregandolo in ginocchio di andare a cena con lei, Roberto rimase in ritiro a giocare a carte con signori. Che tipo era allora? Non era un bullo, nel senso classico del termine, ma svelto, quello sì. Una sveltezza di paese, spietata e innocente al tempo stesso, inefficace in qualunque contesto che non fosse il campo, la partita. Non si spiegherebbe altrimenti come possa essere stato vittima di un raggiro da 7 miliardi. Non si comprende come il suo amico più fidato l'abbia convinto a investire in una miniera in Perù gestita da una banca caraibica. La verità è che non c'era mai stato niente da capire. Roberto fin da piccolo era quello più bravo a giocare a pallone. Dietro una simile grandezza non c'era bisogno d'altro. Roberto era un veneto riservato e scontroso. Del Coniglio aveva l'essere furtivo, imprendibile, l'essere mosso da quello che in campo sembrava un imperativo biologico. Salta l'uomo, corri più veloce, vai in porta. Roberto sembrava scappare più che correre, come fanno solo i più grandi. Nessuno dei fronzoli delle foche ammaestrate di oggi, solo la perfezione del dribbling come gesto puramente geometrico, spostare la palla ed evitare l'avversario. Le punizioni all'incrocio, i tiri al volo, i pallonetti. Gesti per lui naturali, mirati non all'applauso o all'estetica, ma al semplice e ineluttabile compimento della sua superiorità sull'avversario. Per le stesse ragioni Roberto non aveva mai sposato le filosofie aziendali, mai aveva saputo fingere di credere nei motti, nelle urla collettive del gruppo promosse dagli allenatori. Roberto non sopportava quelle chiacchiere. «Datemi la palla e ci penso io», diceva ai compagni, con la parlata schiva e spezzettata. Era questo che Lippi e Capello odiavano di lui. I gesti polemici sui quali la stampa aveva tanto ricamato non avevano niente di raffinato, nessuna complessa profondità psicologica. Non erano che pura tautologia. Capello fa di lui un semplice spettatore, Roberto siede in panchina e scatta fotografie. Lippi lo dipinge come uno dei tanti, non indispensabile, e lui si mette un cappello che dice: uccidimi se non ti servo. Roberto esce presto, prima dell'alba, con una bottiglia di grappa e il fucile regalatogli dal suo factotum. Cammina fra la scarsa vegetazione della pampa alla ricerca del puma. Dietro di lui Petrone, i capelli lunghi raccolti in una coda di cavallo, la barba incolta. Anche lui col fucile in mano. Dietro un cespuglio si muove qualcosa. Roberto ormai è in sovrappeso e indossa un giaccone di pelle che ne limita l'agilità. Petrone lo segue come un'ombra, come ha fatto per tutta una vita. Il puma corre via. Roberto grida qualcosa in vicentino all'indirizzo di Petrone. Si gira sorridendo e vede il fucile puntato. Il sorriso si trasforma in una smorfia di terrore. Prova a saltare di lato, ma le ginocchia sono bloccate a 90 gradi, come quando guidava da Brescia a Caldogno dopo gli allenamenti. Inciampa e da terra fissa l'amico, muovendo la testa in modo frenetico in tutte le direzioni. Petrone invece è immobile. Guarda il puma, guarda Roberto. Lo guarda come non lo aveva mai guardato prima. Non vede un amico né un datore di lavoro. Vede solo multe, bollette, scontrini della lavanderia, i biglietti aerei per il Giappone, le fatture per il nuovo impianto elettrico del centro Soga Gakkai. Ricorda le attese in macchina, la ricerca del parcheggio, le infiltrazioni che gli ha dovuto fare per anni, il rituale della rasatura dei glutei e dei polpacci, gli affari saltati, la miniera in Perù, il negozio di Tiene. Petrone spara. I pallettoni penetrano il giaccone di pelle. Gli occhi di Roberto rimangono impassibili, paralizzati in un'espressione pacifica, indifferente. Dal cappello con la scritta «Matame sino te sirvo» spunta il codino, ormai brizzolato. Inizia a piovere. Una lepre zampetta non lontano da Petrone. Muove la testa in tutte le direzioni, incrocia il suo sguardo e scappa via. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. Ascoltato le storie della buonanotte di Valderrama.it. Thank you. Allora, sulle note della sigla delle storie di Valderrama, noi ci prepariamo a salutarvi. Nel frattempo, al 346-667-3263 è arrivato il messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive: ci stava il pezzo del generale Subaggio, e siamo contenti, insomma, che l'appuntamento con Valderrama riscuota sempre un buon, insomma, apprezzamento tra gli ascoltatori di Radio Blackout. Questo ha, diciamo, a testimonianza di quanto poi lo sport di fatto sia un qualcosa che unisce tutti e tutte. Abbiamo visto il festival, diciamo, dello sport popolare, le giornate dello sport antisessista che sono state partecipate. Vediamo lo sport popolare rinascere e essere, diciamo, uno dei momenti di riscatto anche della vita che spesso ci portano, diciamo, di merda, che spesso vorrebbero farci fare nei quartieri. E allora viva lo sport popolare, viva il calcio che ci fa incontrare, viva il tifo e viva chi racconta un certo calcio tipo Valderrama. E allora, ultimissimi minuti prima di salutarvi, come sempre diamo un po' di spazio agli appuntamenti. Ricordiamo quello di questa sera dalle 20 all'asilo occupato, oltre alla consueta cena. Ricordiamo che ci sarà anche lo spettacolo teatrale Maria Assunta Lo Carmine, uno spettacolo di critica che parla di trivellazione in Campania dal punto di vista di chi sceglie di non abbassare la testa. Quindi questo per quanto riguarda questa sera in via Alessandria 12. Me ne ricordiamo solo un altro per quanto invece riguarda la serata di domani. Mercoledì 7 al campus, festa aliena, serata di inizio anno dalle 22, musica dal vivo con i Randalls, a seguire DJ set a 360 con Jobby Lee, Tappabuchi e Topa Trash. Auletta Civno occupata, vi aspettano i Campus Invaders. E allora, su questo vi salutiamo davvero. Tra pochissimo andrà in onda il GR di Radio Blackout, a seguire Cattivi Pensieri in diretta direttamente da casa di Toshi, che ne approfittiamo per salutare, sperando di rivederlo presto da queste parti. Quindi noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 10.45 alle 12.45. Un saluto a tutti e a tutte da Francesca. E un saluto a tutti e tutte anche da Eddie. A risentirci martedì prossimo.